Ingenero un vizio che si trasforma in stanchezza. Depressiva e molesta, l'uscita non è mai una certezza. Spasmi di odio invadono la mente. Il corpo si deflette in un'agonia e l'apatia che prende il sopravvento e ti ributta dentro in questo covo di ladri. Infami ignari di tutti ignari dei loro avi e padri. In un'azione trovi compiacimento. Frantumi il tuo passato, annulli il tuo futuro. Vivi il presente intrappolato da quella che era la tua cura. Ora una tortura non voluta ma accolta tra le grinfie di una fortuna lacerata, abbandonata. Siero da fata, cura dannata, niente più data, niente. Solo niente controlla le tue mosse sporche di sangue, mana la carne, saliva in fiamme. Vedete i frammenti di specchi che si rompono eliminando il tuo riflesso di quello che eri, di quello che sei stato. Ti rinchiude nel suo atto di errore, silenzio inviolato. Si cerca di salire ma il tuo stato portarti più in basso di tutti, nello strato di fango dentro il marcio. Basta un atto, un abbraccio, un laccio, un bacio della morte e sei condannato. La pena è la vita, senza emozioni, gioie e dolori sono solo apparizioni di un viaggio dentro un miraggio, un inganno di giustiziere. Te ne dà la prova, te la do una volta nel braccio, piaghe a volte in quella massa di carne. L'arte che si insediano e colgono il vizio, la guata, un sole nero che illumina il tuo cammino. Sono sparite quei tramonti che prima erano il tuo delirio, lo schizzo di un attimo che puoi rivivere ogni attimo nella normale monotonia, una scia di compiacimenti senza più limiti. Due difetti si sono mostrati in effetti irreversibili, irreversibile. La tua ora indistinguibile, la tua dimora invivibile, la tua donna invisibile, il tuo destino accettabile, affabile, impagabile. La notte che si cova dentro, ti scioglie da dentro l'incubo nascosto, ricordo non voluto, un risultato ottenuto, la baba che scende sul collo. Autore di aborto per il tuo corpo, autore sei morto. La scintilla che spegne la fiamma, la bagna con il colore della follia. Malinconia, portami via, senza lasciare alcuna scia del mio passaggio. In questo viaggio sono solo un fantasma che non lascia tracce, ma pagine scritte, in fogli bianche sono descritte le mie memorie. Ora ti lascio qui, è arrivato il mio domani, senza spirali di luce che anima il mio mattino. Ricorda me stesso che sono vivo, ricorda me stesso il mio destino. Mi rivolgo a me stesso come un pazzo, solo pene, solo strazio. Avvolto in un addio, prendo il cappio, lo stringo forte al mio collo e del mio futuro. Sono io l'assassino, ricordo com'ero in un gesto, ora mi descrivo. Saluto tutti gli amici amati, finisco insieme al mio delirio. Sono l'infami, ti tendono le mani per poi pugnalarti al petto in un domani, senza re o reami. Una corona di spine mi stringe in testa, la ragione lascia il posto alla schizofrenia. E rimango da solo abbandonato con mio corpo.